Ieri è stata una giornata storica, non soltanto per il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro comparto, ma in generale per il movimento dei lavoratori di questo paese, per la loro capacità di auto-organizzazione. Abbiamo finalmente preso parola e abbiamo finalmente dimostrato che è possibile, con la determinazione e con la piazza, arrivare a delle cose importanti. Dopo 4 mesi di mobilitazione, di assemblee dal vivo, di coordinamenti territoriali e su Zoom, come professionisti dello spettacolo e della cultura siamo finalmente stati ascoltati in un tavolo congiunto interministeriale, Ministero del Lavoro e della Cultura, e ci auguriamo che prossimamente ci sarà una ulteriore convergenza nei colloqui anche con il Ministero dell'Economia, affinché ci sia un serio aumento degli stanziamenti dei fondi per la cultura e una revisione dei criteri di accesso a questi fondi. Durante il tavolo è stata espressa da più parti la volontà di riformare integralmente il sistema culturale italiano. Siamo stati tra i primi in questi mesi a promuovere questa necessità e siamo orgogliosi che finalmente questo avvenga in un tavolo interministeriale. Crediamo che se questo governo avviasse un iter serio per una riforma parlamentare, rappresenterebbe un grande atto di coraggio e una forte rilevanza storica. Sono emersi naturalmente all'interno del tavolo l'interesse a capire da parte dei ministeri competenti quali categorie di lavoratori fossero rimasti fuori, esclusi dai bonus e dalle tutele previste per l'emergenza. In questo contesto è stata confermata la volontà da parte dei ministeri di confermare l'estensione dei bonus e della cassa integrazione per un ulteriore periodo di emergenza. Ovviamente riteniamo necessario questo strumento, ma crediamo che non si debba più parlare di bonus una tantum, ma di un vero e proprio ammortizzatore sociale di continuità che garantisca il settore nei periodi strutturali di non lavoro. Il tavolo ha prodotto 2 sottotavoli che si vedranno presto, al quale noi saremo presenti come professionisti dello spettacolo e della cultura, uno sullo spettacolo dal vivo e l'altro sul cinema e l'audiovisivo. Diciamo che ieri è stato un ottimo risultato, come si diceva all'inizio, è stato anche storico per tutto quello che sono i movimenti auto-organizzati, però siamo anche consapevoli che non è sufficiente. Innanzitutto il tavolo di ieri, che ha aperto la possibilità di dividersi in ulteriori tavoli, manca di una cosa fondamentale che noi da 4 mesi stiamo portando avanti, che è anche la riforma strutturale del sistema culturale intero. Fondamentalmente manca un terzo tavolo, che è quello sui beni culturali e sull'associazionismo. Su questo per noi è fondamentale che il riconoscimento adeguato del lavoro intellettuale e specializzato che i lavoratori e lavoratrici dello spettacolo e della cultura rappresentano. C'è bisogno di una riforma di settore che parla di tutele contrattuali, di malattie e infortunio, di maternità e paternità, di montante contributivo a fine pensionistico, di contratti nazionali unitari, perché come sappiamo ce ne sono troppi all'interno del settore, soprattutto molti applicati che non hanno niente a che fare con spettacolo e cultura. È fondamentale trovare un modo per avere una continuità di reddito, quindi un ammortizzatore che vada a sostenere insomma tutti i momenti di buco, di non lavoro per il settore. È fondamentale, dove possibile, l'internalizzazione, quindi contratti diretti con gli enti che fanno spettacoli e altro. Pianificazione e progettazione culturale partecipata, defiscalizzazione, deburocratizzazione per le imprese sociali del settore. Queste sono un po' anche le cose che abbiamo portato ieri al tavolo, dove appunto erano presenti moltissime parti datoriali e che comunque continueremo ad esserci come professionisti dello spettacolo e come la rete intersindacale che è nata in sostegno del movimento. Aggiungo che se siamo arrivati a questo è frutto di mobilitazioni che sono partite da qualche mese, dal 30 maggio quando in 15 città italiane, si è presidiato nelle piazze dal 27 con un giugno con una manifestazione nazionale che ha visto centinaia e centinaia di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo da tutta Italia a Roma, e da presidi che sono stati fatti fuori alle regioni, fuori alle sedi dell'INPS. Vorrei che questa cosa venisse da parte nostra rivendicata, perché è stato, se si è arrivati ad un tavolo interministeriale, è stato frutto comunque di mobilitazioni che ci hanno visto tutti presenti. Questo stato di agitazione permanente non termina con questo incontro con il tavolo ministeriale, ma continuerà per ribadire che quella del 15 giugno è stata una falsa ripartenza, che soltanto il 7% dei lavoratori del comparto in questo momento è ritornato a lavorare, ma c'è ancora un 93% che resta a casa. Continueremo, come è stato l'appuntamento al Teatro dell'Opera il 16 luglio, come sarà i prossimi appuntamenti il 23 luglio all'inaugurazione della stagione del Teatro San Carlo a Napoli, come sarà il 25 luglio la sera fuori all'Arena di Verona. Continueremo in tutte le piazze per denunciare ancora una volta questa falsa ripartenza. Quindi restiamo in uno stato di agitazione permanente fino a una riforma strutturale del sistema culturale nazionale. Cercheremo la settimana prossima di fare un'assemblea nazionale dove tra i punti ci sarà come arrivare ad questo autunno caldissimo che vedrà migliaia e migliaia di lavoratori senza soldi per poter sopravvivere.